Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Signor Fox, lei ha scritto a noi della bilancia. Proseguite spediti, per la vostra strada non vi fermerà nessuno. La stradale con la paletta mi ferma a 150 euro di verbale più 6 punti sopra la patente, signor. Cazzo nero, lo stanno. Vergine, una giornata che si presenta propizia potrebbe essere funestata da un taglio letale. Ai, Alberto, che dolore! Oh, che dolore! Cadice nostro, lasciateci passare! Lasciateci passare! Papà, Manfredi è un ragazzo. Lo so, ogni tanto ci sono persone che si stracciano le vesti perché a Natale arrivano i filmacci di Natale, ormai l'hanno chiamati da anni i cinepanettoni. Tutti sono bravi a dire che il cinepanettone è un sottogenere culturale, che ci vanno soltanto i coatti, ci va la gentaccia, ma nelle facce tristi che ho visto in queste feste, girare, rigirare per le strade, guardare le vetrine, senza aver nemmeno l'osare e l'ardire di entrarvi, le uniche persone che ho visto felici, allegre, contente e giubilanti sono il pubblico vastissimo che ha affollato le sale cinematografiche per il cinepanettone. Quindi quest'anno, come già feci gli altri anni, dedicherò una trasmissione alla rivalutazione del cinepanettone come genere confortativo, come genere riassuntivo di un passato lontano, scellerato, fanciullesco, adolescenziale, che dentro di noi ancora scalpita e vorrebbe riuscire, e nessuna ha voglia, guardandosi il mondo esterno, di farsi e di affacciarsi soltanto alla appendice più estrema della nostra coscienza. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È il difficile compito questa mattina di ridare un'inquadratura ma anche una nuova dignità al cinepanettone. Siamo d'accordo che è un sottogenere cinematografico, ma siamo altrettanto d'accordo che tanti sottogeneri cinematografici poi, quando i protagonisti divennero eroi postumi, furono rivalutatissimi. Totò, grande artista, grande genio, ma al tempo che produceva filmacci scellerati con lui davanti allo specchio che faceva se stesso, veniva considerato alla stregua di un cinepanettone. Mi aggancio subito su quello che hai appena detto, perché io ho visto Di che segno sei, che abbiamo appena sentito, l'ho visto inabissandomi in una sala con lo fine filosofo Fabrizio Intonti, quindi abbiamo toccato con mano e il pubblico e quello che si produceva sullo schermo. Totò, hai detto, Vincenzo Salemme in questo film fa il maresciallo e imita bassamente, biecamente Totò in maniera tristanzuola, ma riproponendo quel cliché che comunque funziona in maniera pavloviana su un pubblico che ride, come appunto davanti a... Quali sono gli elementi di aggancio, di attenzione che calamitano l'attenzione del cinepanettone? Io, persona molto incline, diciamo, alla satira, al fescennino, allo sberleffo salace, ma anche alla volgarità, in qualche maniera, quando diventa divertente, quando è uno scherzo tra amici, quando non offende nessuno, devo dire che ci sono alcune situazioni chiave del cinepanettone, sono sempre le stesse. Christian De Sica avrà rifatto migliaia di volte la scena in cui lui c'ha la moglie e l'amante davanti e finge di parlare a tutti e due, o suona la notte di Capodanno una canzone d'amore rivolgendosi alla moglie e l'amante entrambe sedute in sala. Ecco, però mi fanno ancora ridere, perché? Vabbè, cioè, appunto, cioè, anche tu sei come me, come tutti, vivi il riflesso pavloviano. In questo film, in particolare, Di che segno sei, c'è un altro dei cliché, dei grandi topoi del genere, che è l'immenso clistere ribollente che finisce nel retto del solito Boldi, appunto, che ribolle, appunto, c'è questa sorta di discorso fisiologico natalizio, che è appunto legato anche alle feste. Guarda, nei giorni precedenti ritrasmetteva Sky vecchi film di Natale degli anni passati, Natale in India. Boldi viene sodomizzato da una tigre perché De Sica gli dice: fai il verso del... era un animalista naturista, faceva il verso della tigre in amore per salvare, e era coperto con una pelle di tigre per nascondersi da un marajà, cioè tutta una storia vicenda. Si accorge De Sica che c'è un tigrone infogliato alle sue spalle, dice: fai il verso, la tigre in calore si allontana, e Boldi viene sodomizzato dalla tigre. Certo, appunto, e nonostante il corpo in disfacimento di Boldi, si continua a essere appunto penetrato, e questo diventa uno dei grandi cavalli di battaglia del cinepanettone. È una speranza anche per il pubblico più anziano. Anche quest'anno a Natale ci si ammazza dalle risate. Cossa le porto. Auguri! Il film più atteso dell'anno! Come prima lezione ci facciamo un bel fuoripista! Mortacci vostri! Ah! I mortacci vostri! Hai visto quella che arriva da oggi? Mamma mia, quando è buona! Nuove ed esilaranti gang! questo è il paradosso, l'estremizzazione del cinepanettone. Sì, questo è Maccio Capatonda che parodizzava il cinepanettone, ma in realtà quello che abbiamo visto io in Tonti è ieri, un cinepanettone a tutti gli effetti. Era uguale, c'è Proietti che lo vedi stanchissimo, tutto mogano, che rifà il Pignacorelli Alberto Sordi di Troppo Forte, c'è l'avvocato cattivo che perde la memoria, che dice li mortacci tu, e tutto il pubblico che rideva solo su queste trivialità, queste grevità distillate così, senza una struttura, una trama. Questo è quello che si è perso rispetto al passato, cioè l'organizzazione drammaturgica in una sceneggiatura che avesse dei riflessi anche antropologici. Qui siamo al grado zero del linguaggio, questo è l'aspetto interessante che io ho rilevato, insomma, andando in cinema. Sì, ma qua mi riporta un genere che oggi, figurati, è o sugli altari dei cultori del cinema di genere o naturalmente dimenticato, più di peso, che tutto il genere di varie produzioni, appunto, dei B-movie italiani, in cui c'era il filone dei Pierini, il filone delle dive tipo la Fene che si facevano la doccia, anche lì era un ripercuotere continuo di stereotipi e rumori gutturali, rutti, flatulenze, insomma le cose più banali che dal tempo di Plauto rappresentavano l'elemento divertente della rappresentazione teatrale rimangono ancora quelle che ci fanno ridere. Ah sì, come sono come le torte in faccia. Quell'aspetto funzionano sempre, quello che ci costruisce intorno che dovrebbe essere un po' più ricco, ecco, solo questo. Qui che al cortile pezzo mi è costata una lira la settimana, pensa che ho vinto, ci stavamo bene 2 mesi, ci stavamo bene. Grazie, papà. Senti, se non ci vedi ritornare a Peotto, non ti dice niente, papà, mette da stella, chiami i cani di San Bernardi, mi porta a sciare questo. Ciao. Ciao, ma. Vediamo di continuare nell'analisi degli elementi subliminali che danno successo a questo genere. Parlando di film di Natale si parla di gente che va in vacanza. Mai come in questo periodo l'andare in vacanza viene considerato un punto d'arrivo per molti irraggiungibile. In vacanza attualmente ci vanno classi sociali differenti che si contrappongono e questo è il primo gioco che a tutti è concesso in realtà perché tutti hanno comunque un potere d'acquisto, ma esiste una differenza di comportamento, di modo d'essere, però alla fine si attenua, si dissolve dentro il cinepanettone la grande notte in cui tutte le vacche sono nere. Esattamente, però questo è Vacanze di Natale 83, quindi più di 30 anni fa, la distanza con l'oggi è abissale, qui c'è una costruzione antropologica, sociale, Mario Brega è il macellaio arricchito che riesce ad arrivare a Cortina col figlio triviale come lui, Claudio Amendola, quindi sbarcano da Ovindoli nel mondo dei ricchi, c'è il contrasto, ci sono delle situazioni comiche che però partono dal sociale. Oggi questo è stato, nel cinepanettone che abbiamo visto noi, completamente abraso, cioè appunto sono solo puri riflessi di volgarità che scatenano una risata quasi isterica, un rigor mortis, un rictus del riso popolare. Ecco, non c'è più una dinamica di pensiero, anche minimo, ma che funzionava come nel caso di Vacanze di Natale 83. Io mi domando, ma c'è necessità di ricostruire questa griglia, questo schema, questo contesto in cui poi possano anche scorazzare libere le volgarità? O se questo ha successo, perché impegnarsi? Può essere, vediamo, stiamo a vedere. Che sputtanamento! Che trambata! Mamma, il mondo va avanti. Tu sei rimasta agli anni 50. Guarda come sei pettinata. C'è ancora il testone da matta? Eh no. Eh sì! E poi la colpa è vostra. Ma avete fatto viaggiare? Ma avete mandato nei collegi svizzeri? Eccola là! Adesso mi trovate a letto con Leonardo Sartolin. Che sputtanamento! E basta. Eh no! Papà! A te ti ha fregato il benessere. Tu facevi il capomastro. Invece oggi c'hai i soldi e te scandalizzi. Ma hai mandato in America, a New York. Noi siamo defrascati. Ah papà, e piantala. E poi? Mamma gioca a Gina al circolo carottieri e si veste da Versace. Tu metti l'orologio al polso come Gianni Agnelli. E io vado a letto con Leonardo Zartolini, perché se può. Qui c'era già un'anticipazione di costume. Il figlio degli arricchiti viene beccato a letto con un altro ragazzo. Guarda che negli anni Ottanta non era una cosa così consueta, oggi anzi sarebbe rientrerebbe in una sorta di valore da aggiungere al proprio blasone. E loro rimangono basiti, ma lui aveva viaggiato, ci avete fatto viaggiare, da Frascati avete mandato a New York e pretendete, io ho già respirato l'aria del mondo che verrà. E devo dire in qualche maniera sono degli anticipatori di costume, come sempre troviamo nella più bieca commedia comunque dei segnali che già devono darci un'indicazione alla società a venire. Quindi è un cinema che, pur essendo ultra popolare, aveva una tridimensionalità che oggi manca. Questo tempo sarà difficilmente rintracciabile, almeno in questo cinepanettone di cui si parlava prima, in Di che segno sei, perché lì sono proprio delle figurine svuotate d'anima, anche greve, anche unta, come questi di Vacanze di Natale 83, però ce l'avevano. Ecco, allora, forse la differenza che stiamo cercando di cogliere questa mattina è proprio questa. Il cinepanettone, da un certo periodo in poi, ha segnato comunque dei marcatori dell'epoca in cui veniva prodotto. Man mano che cresceva e man mano che ci si accorgeva che il gioco facile costava meno in termini produttivi, in termini di impegno ideativo, quindi si giocava soltanto, come prendere un film porno, prendere solo le scene di sesso, assemblarle tutte assieme, è tutta una grande carica dei 101, però in realtà manca il contesto. Ma nel cinema porno non viene chiesto un contesto, ma probabilmente nel cinema, anche nella commedia, il contesto ha un senso. Oggi abbiamo soltanto l'estrapolazione delle scene clou e la ripetizione di questo, ma del nostro tempo, o il nostro tempo non esiste più, è soltanto un tempo fatto di stereotipi, di ombre, di fantasmi o di zombie, o in realtà manca lo strumento che noi abbiamo analizzato da anni della salace lettura della contemporaneità. È proprio molto vero quello che hai detto, lo condivido molto, cioè gli archetipi sono sempre più lontani. Ti ho detto Salemme che rifà malamente Totò, ma cogliendone solo l'aspetto più becero, è fatto male, di fatto malissimo, quindi non c'è più l'essenza, non c'è più uno sguardo d'insieme sul proprio tempo. Hai visto l'animale come è andato via scodinzolando? Questa storia delle tue mega mance la trovo così cafona io. Ma quale cafona? Sei tu che non sai viaggiare, dai. La regola numero uno, quando arrivi in un albergo, è presentarsi con il personale, no? Tu ti spari via un 300.000 e sei nel burro tutta la vacanza, te. Il mio non è un punto di vista, è un teorema, claro? Facciamo uno strappo alle tue regole, eh? Guarda, la libido mi sarebbe per il sì, eh? Ma il pilota dopo il Gran Premio ha bisogno del suo descanso. E poi è scattata la regola numero due. Giro di ricognizione del pueblo in ricerca de los amigos. Hasta la vista! Anche qui appartiene ormai a una stirpe scomparsa. Morto lui, è morto questo genere. Sì, questo è il Pietro Bembo della nostra contemporaneità, il grande Guido Nicheli, ricostruttore di un linguaggio che però ritroviamo ancora oggi negli anglismi, nella società, non nel cinema, negli anglismi usati, nei ciusi, negli anglismi di Renzi, spesso improvvidi, ma insomma lo ritroviamo spesso questo tipo di modalità linguistica che anticipava un tipo antropologico descritto in pieno con molta ricchezza, e questo si è perso. Però questo compiacersi del benessere, del potere d'acquisto, dei soldi accumulati, quindi spesi, il disprezzo verso le maestranze, verso i camerieri, verso gli inferiori, è una sorta di mega direttore di fantozzi improvvisamente arricchito e si trova nel ruolo così. Oggi è scomparso, oggi sono i magnati russi che vengono in Italia, possono avere un atteggiamento del genere, ma non lo capiamo perché parlano russo. Esatto, esatto. Quella ferocia, questo cinema la riproponeva intera, oggi bisognerebbe ritrovarla, c'è appunto, come dici, forse nei magnati russi, ma anche in altre situazioni. Bisognerebbe cogliere, il cinema popolare dovrebbe occuparsi di questo, di osservare e riprodurre. Fermiamoci un istante per il traffico, poi riprendiamo con Giuseppe Sansonna sui cinepanettoni. Melog. Cronache meridiane. Volete ordinare, signori? Ah, sì. Ah, sì, certo. Vediamo. Filet d'onbon, chevalier au chartichot de champagne. Médaillon de turbotin, saumon chenage, courgette et poumé. Saumon de cigarette et poumé. Buona. La trippa? Sì, sì. Salvatore? Sì? Porta quattro trippe a sti signori. Quanto ci piace indulgere sui nostri mali nazionali, sulle nostre pochezze endemiche, sulle nostre viscerali lacune. E questo, in effetti, sì, chi ha voglia, chi ha stomaco, chi ha autoironia, è il fondamentale asse portante di tutto il cinepanettume. Qua non è un cinepanettone negli effetti. No, no, lo è. È un vacanze di Natale dei primi anni 90, in cui c'è il passaggio di consegne ideale fra il mondo dell'antica commedia dei colonnelli, cioè di Alberto Sordi, che guarda i parvenu della commedia, che sono Christian De Sica e Boldi, e appunto mostra tutto anche il suo distacco da questo mondo, lo mostra all'interno della sequenza. Lui è il maître di questo albergo di lusso. Anche qui c'è un'anticipazione per il gusto coatto, per il food raffinato. Sì. Oggi sento dire, quel mio amico lavora nel food, cioè fa il commerciante di prodotti alimentari. Cosa fa? Lavora nel food. Ecco, esattamente questo, esattamente questo. È l'anglismo e l'esotismo che nobilita, che nobiliterebbe, ma in realtà non nobilita proprio nulla. E quindi Sordi riporta brutalmente, Sordi che viene da un mondo antico in cui davvero c'era anche un gusto per la nobiltà, e si trova di fronte questi e li stigmatizza così ferocemente, con la ferocia di cui era capace, reale. Ecco, questo si è perso, come dicevamo prima, una certa perfidia della commedia, una certa perfidia che però ha una tridimensionalità, una profondità e uno stacco che possono guardare in faccia la realtà e riprodurla. Beh, qua è la caramellosità benignesca che stiamo vivendo noi. Non si tocca nessuno, non si offende nessuno, bisogna tornare a essere tutti buoni, non ci può essere il dannato che ha diritto e allo stesso tempo rischia di essere messo a rogo, di dire quello che vuole di chiunque. No, ci sono i cattivisti di maniera che fanno ridere, una cosa salottiera, e ci sono naturalmente ormai lo spirito edulcorato che non fa male a nessuno, lo stesso quattume che ti va a vedere non vuole essere colto nella sua coscienza. Non sono momenti per far soffrire la gente, per far pensare la gente. Quindi ben venga il cirpanettone alla vasellina per tutti, che entra meglio. Oh, ma che te chiodi con sto carro da morto? Eccola, barotto l'optional e farei avanti nebbia. 580 carte devo sganciare. Senta, bell'uomo, scusi, questa è la mia assicurazione. Ecco, nel senso che la compagnia è mia, l'ho comprata io. Non è che voglio fargliela pesare. No problem, non si preoccupi. Per un fanalino antinebbia, 580 carte, che vuole che sia, signora. Enzo! Enzo! È la mia signora. È un po' buzzicona, però è molto rapante. Molto. Enzo! Mi ha inchiodato dentro a sta gabbia, sono tutta appiccicata. Dov'è che ci frega le valigie? Non strilla, che poi ti sentiamo nelle donzille e mi diventi pellicano. Soffri di faringite. Giochiamo un attimo a riflettere sulle mutazioni dei rapporti di coppia. Esiste sempre uno stereotipo inalienabile, tra i due ci deve essere sempre un grande dislivello, o lei è particolarmente avvenente, lui è particolarmente cialtrone, impresentabile, o viceversa, lui è particolarmente intraprendente, lei è fuori standard rispetto a alcuni modelli stereotipati. Eh sì, qui c'è il glamour di Christian De Sica contrapposta a Nadiona Rinaldi, insomma, che anche qui però c'è la contrapposizione, fa un altro dei cavalli di battaglia del cinepanettone, c'è il confronto Roma-Milano, e con i milanesi tutti un po' impettiti, un po' precisi, incarnati da Boldi, che fa sempre questo personaggio o imprenditore o comunque figura di un nord lavoratore e impegnato, e invece il cialtronismo compiaciuto romano incarnato da De Sica, che però è alternato invece anche un po' di aria compassata che ricorda un po' certe cose del padre, no? Questo modo un po' affettato di parlare, di alternare il Jekyll e Hyde, il coattone e l'affettato. Sì, è questo spirito cosmopolita d'accatto, da fotoromanzo, sì, che certo. L'uomo che ha vissuto, che ha navigato, che una volta si è tingeva la cultura francese, poi è passato più a ispirarsi a un mondo anglosassone, la cui raffinatezza è la citazione, è l'impressione di aver vissuto, di essere passato attraverso delle esperienze. E devo dire che anche qui forse qualche piccola anticipazione la vediamo. Il faccione di Nadia Rinaldi è un po' l'idea che prima o poi sarebbe cambiato, l'idea della cultura anoressizzante. Oggi la polemica su queste modelle ampie, curvilinee, abbondanti, che danno sentore di possibilità d'esistenza anche alle donne che negli anni non si sono adeguate al modello scheletrico della bellezza. E cala, mi hanno dato il benvenuto dei fine millennio. Ma mo che fai, ti fermi? Giovanni, io questo viaggio non lo reggo più. 12 chilometri di fila orte a Passo Duomo, 2 ore per mettere le catene a Roncobilaccio. La nebbia a Ferrara. Papà, siamo pure partiti alle 5 perché c'hai l'ansia. Avvocato, sono 11 ore che stiamo in macchina. Comunque la prossima volta per venire a Cortina chiamate Montezemolo e fatela accompagnare a Schumacher. Ma che fai, pure lo spiritoso? Fra pochi giorni è Natale, io devo aprire casa. E che colpa mia se sto gattone lo salta fuori all'improvviso? Capirai, c'è una capoccia così. Chissà perché mi dà sentore questo film di tempi molto passati, che andare a Cortina era un viaggio, doveva prendere l'autostrada, alzarsi presto. oggi non sarebbe più nella mente di un autore di film, non esisterebbe un copione in cui c'è la difficoltà di andare in macchina da Roma a Cortina, fa ridere. Questa è la fine del Novecento, infatti, sono quelle vacanze di Natale lì. E appunto si parla di questa fatica di arrivare allo status symbol a Cortina e da Roma. Il senso. Ma quindi è una metafora. Sì, sì. È un percorso dello spirito in realtà molto faticoso e periglioso. Non è soltanto la nebbia, le catene, la fila orte, che c'è anche questi giorni le file orte. Non cambia, ma non viene radicalmente rappresentato l'italiano che sta in fila orte. Non è più quello che conta, non è bersaglio di nulla e di nessuno. È quasi noi che facciamo la fila per uscire da Roma a Orte, ormai siamo un sottoprodotto inesistente dell'attenzione sociale della fiction cinematografica. Esatto, per poter accedere al tempio del lusso da parvenu qual è, appunto deve fare fatica, è una sorta di percorso interiore a cui accedere, ma oggi appunto si è anche perso quello effettivamente, si va in aereo probabilmente, poi con gli aerei, con i voli anche low cost, tutto è cambiato nell'immaginario anche degli sceneggiatori. Stante sempre la considerazione che stiamo ricordi facendo. Ricordi però nella commedia anni 60 anche la partenza e l'arrivo in aereo era sempre rappresentata. C'è sempre una famiglia, la famiglia Alberto Sordi quando lui va a Londra, in Fumo di Londra. Certo. Da Fiumicino che lo saluta, lui sale in aereo, perché era un'avventura, era un'avventura. Andare a fare un volo in aereo era un'avventura. Oggi non c'è più nessuna avventura rappresentabile perché, ahimè, il low cost ha portato tutti ovunque. La maggior parte dei nostri colleghi che vediamo in giro la mattina, non so, a portare i pacchi di giornali sono già ai Caraibi e noi stiamo qui ad arrovellarci a Piazza Indipendenza. Yuhu! Ho portato gli accappatoi! Madonna mia, ma che se bussa? Chi c'è? Paura che ti guardo? Guardo. Ma dico io, con 8 milioni di persone che ci stanno a Rio, ma proprio quando dovevano venire? Senza soldi, senza passaporto. Per fortuna che avevamo l'indirizzo di questa signora gentile. Non lo so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona cozza. Ha fatto una crasi? Crasi. Ma questo è scappato, non mi sono accorto, ma... È strano perché di solito fa nebole. Mi rimandi ogni anno questo pezzo della crasi perché sai. Sei tu che lo vuoi. No, ma è fondamentale, vedi, è il contrasto culturale. Il professore universitario che usa il termine crasi in maniera naturale per l'involontaria crasi che ha fatto De Sica. Immagina che nel linguaggio forbito per crasi si intenda la flatulenza sott'acqua, dice non vedo le bolle. Certo. E qui trovo che ci sia un cortocircuito culturale fantastico, mai sufficientemente rappresentato e analizzato. Dovrò fare tesi laurea sulla crasi. Certo, ma infatti qui c'è ancora dei riflessi dell'inadeguatezza linguistica che riflette un'inadeguatezza sociale. Cioè, poi Massimo Ghini, anche lui è abbastanza improbabile come professore. L'ho visto oggi nelle locandine che sono in giro per tutta Roma con gli occhiali dove fa un teatro anche lì con un libro in mano, anche lì appunto parodia dopo la crasi, come è possibile presentarsi così? Però lui sapeva cos'era la crasi, quindi può fare l'intellettuale. Poi la dimostrazione era che in certe situazioni di totale dissolutezza, cioè la vacanza in Brasile finalizzata comunque a scopi non certo culturali o turistici, attraversa trasversalmente tutte le classi sociali, ma le cronache ci riportano a questo. Siamo in un paese in cui non esiste distinzione tra la politica, tra l'impegno sociale, fra la beneficenza, fra i valori spirituali, fra i valori ideali, fra la bassa manovalanza mafiosa, e quindi è giusto che tutto questo sia difficilmente rappresentabile e ce ne rendiamo conto. Ma lo sai che qui a Miami è evaso un serial killer che fa pezzi le sue vittime? No. Vuole? Ma lo sai che aveva ragione, sono buonissime. Ma di che so? Ma io non capisco il retrogusto. Ma la cosa schifosa è che questo serial killer, dopo aver ucciso come macabra usanza, si nutre di testicoli umani. Ma che schifo, ma mi scusi, ma lei mi parla testicoli umani mentre stiamo mangiando? Ma per favore. Ha ragione, anche perché la forma richiamerebbe... Ci siamo mangiati i coglioni a vaccinare. Se ne avevo finito due palle che sono rimaste. In che senso? Levo Evaristo o Ernesto? Appunto, in che senso? Evaristo il coglione sinistro, Ernesto il coglione destro. E io il mio destro, eccolo qua. Certo, per i nostri ascoltatori che stanno apprestando ad imbandire il cenone di fine d'anno, questa miserrima vicenda in cui realmente i due protagonisti mangiavano il frutto abominevole del delitto del serial killer e mangiano delle polpettine non sapendo che in realtà fossero realmente i testicoli delle vittime. Christian De Sica fa un volto deforme e terrificante dicendo queste battute da trivio, ma prima riallacciandomi a quello che dicevi prima, cioè questi italiani andando a Cuba, no? Io in un'immeritata business class che mi hanno pagato i produttori, ero circondato dai quando è provocato il disgelo fra Occidente e Cuba, merito mio di Thomas Millian, no, ma a parte gli scherzi c'era questa serie di personaggi proprio da cinepanettone di italiani che andavano a Cuba in business class, piccoli imprenditori, grossi commercianti romani che andavano a Cuba non certo per riassaporare l'aria della rivoluzione, questioni pelose naturalmente, e quindi erano proprio da cinepanettone, soggetti da cinepanettone a fianco a noi, quindi in questo il cinepanettone è sempre implacabile. Quindi non lamentatevi, colleghi, che dell'intelletto fate la vostra ragione di vita, il cinepanettone siamo noi, e finché noi ci vediamo rappresentati ci sentiamo vivi. Facciamo il buon anno, va, buon anno nuovo, buon anno nuovo. Non so, ci sarete, i budget sono molto limitati. Vedremo anche per me vale la stessa cosa. Vedremo quello che buon sarà. Anno, buon anno. Buon anno, buon anno.